quanta sabbia nei tuoi piedi, quanta pioggia nelle mani, quanto vento nei confini che avvicini ed allontani. Se il dolore brucia e la fiducia sfugge al tuo domani, tu riponi i miei pensieri, le tue ali stanche. Quanti cocci nei tuoi passi, quanti sguardi in vetri scuri, dense nubi nei tuoi cieli, nebbie in giorni mai vissuti. Se ti senti sola ed hai paura, stringi le mie mani e distendi i tuoi silenzi sulle ali bianche, su distendi le tue ali bianche, col silenzio le tue ali bianche si sorvolano fiumi e montagne. E se il sale ancora sulla bocca ridi stato ieri, e vedrai che anche i sorrisi torneranno in sguardi veri, si va in alto oltre i grattacieli. Se il dolore brucia, la fiducia, credi nel